Uno studio italiano ha individuato in vivo un importante interruttore molecolare per impedire la comparsa del diabete. Grazie a esperimenti su topolini, i ricercatori hanno visto che è sufficiente spegnere questo interruttore per prevenire questa grave malattia indotta sempre più spesso da eccessi calorici e sedentarietà. Ne parliamo col dottor Giovan Battista Pani, ricercatore presso l'Istituto di Patologia Generale all'Università Cattolica di Roma. Dottor Pani, buongiorno. Buongiorno. Dottore, ci spiega come siete arrivati a questo risultato? Sì, beh, il nostro è uno studio di base, mi preme precisare, quindi è compiuto essenzialmente su animali da esperimento, su degli animali che rappresentano un modello appunto per questa importante patologia, il diabete alimentare. Sono degli animali geneticamente modificati e quindi mangiano tantissimo e accumulano un sacco di grasso, sono un modello di obesità. Questi animali diventano diabetici. Ebbene, noi abbiamo osservato che disattivando un gene in particolare, il gene per la proteina P66, in questi animali obesi, questi animali pur continuando a mangiare e a ingrassare non sviluppavano la malattia del diabete. E quindi questo ci dice che questa proteina, probabilmente insieme anche altre, insomma ha tutto un circuito molecolare che include diversi elementi che noi continueremo a studiare ovviamente, questa molecola è comunque importante per connettere l'eccesso calorico allo sviluppo del diabete. Essenzialmente il diabete è una patologia tale per cui le cellule rifiutano di assumere gli eccessi di cibo a cui noi le esponiamo con un'alimentazione sbagliata. Ecco, ma qual è il meccanismo, dottor Pani, che fa sì che le cellule rifiutino questo eccesso alimentare? È esattamente quello che tanti gruppi di ricerca in tutto il mondo stanno studiando in questo momento. Questo fenomeno si chiama insulinoresistenza ed è appunto la causa, diciamo, il meccanismo patogenetico del diabete. È un meccanismo tale per cui le cellule a un certo punto risultano resistenti, rifiutano appunto di rispondere all'ormone insulina, che è l'ormone attraverso cui noi comandiamo alle cellule di assimilare tutto il nutrimento che loro forniamo. Il meccanismo dell'insulinoresistenza è largamente oscuro, ma noi dimostriamo che P66 contribuisce a questo fenomeno, quindi aprendo un domani la speranza, un possibile intervento farmacologico su questa proteina. Dottore, in pratica le cellule rifiutano di mangiare, come se ci fosse una persona che improvvisamente non mangia più. Nonostante questo, la spesa continua ad arrivare a casa, gli alimenti si affollano nel frigorifero e nella sua cucina diventa una spazzatura. Perché gli alimenti non assimilati non se ne vanno, ma finiscono in circolo, dottore. Esattamente questo è il problema, che l'eccesso di zuccheri e di grassi che le cellule non vogliono più assimilare si accumula nel sangue, dove svolge una serie di effetti, ha una serie di effetti dannosi su tessuti come i vasi, come le arterie, come l'occhio, come il rene, tutti quegli organi che sono poi gli organi bersaglio del diabete. Dottor Pani, mi preme sottolineare due caratteristiche importanti di questa ricerca: una ricerca tutta italiana e ricercatori tutti giovani. Sì, noi siamo un gruppo relativamente giovane, io ho 42 anni ma sono il più vecchio sicuramente del gruppo, fatto soprattutto da colleghi che sono medici specializzandi, dottorandi di ricerca, tutte persone molto entusiaste, molto giovani e che si prestano anche a grandi sacrifici per amore verso il loro lavoro, verso questo studio e così via. E quindi credo che debbano essere ringraziate. Assolutamente, il nostro grazie alla ricerca. Ma tornando proprio alla ricerca, come lei ha ben evidenziato, è stata fatta su animali da laboratorio. Avrà bisogno di tempi tecnici, tempi canonici per arrivare a risultati definitivi e a una futura applicazione. Resta comunque, dottore, un dato importante: il diabete di tipo 2 può essere a tutti gli effetti considerato una patologia comportamentale. Sì, diciamo che la principale causa del diabete di tipo 2 è una causa di tipo comportamentale, cioè dipende da quanto mangiamo, da quanta attività fisica svolgiamo e così via. Esiste una predisposizione genetica, ma che può essere largamente compensata dal comportamento individuale. È chiaro che comunque conoscere i meccanismi attraverso cui l'eccesso alimentare poi porta al diabete è una cosa importante domani per appunto lo sviluppo di farmaci, la prevenzione e così via. Dottor Pani, in attesa che la ricerca arrivi a dei risultati che possono trasferirsi proprio direttamente al paziente, la raccomandazione è dieta varia ed equilibrata e soprattutto un movimento. Movimento, moderata attività fisica, appunto attenzione all'accumulo di peso, all'indice di massa corporea e così via. Dottor Pani, grazie a lei, complimenti a lei e ai suoi colleghi, ai suoi giovani colleghi e insomma speriamo che la ricerca proceda col vento in poppa. Buona giornata. Lo speriamo tutti, buona giornata.